i fiumi. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. L'isonzo, scorrendo, mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattro ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'Isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo, il mio supplizio, e quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono, mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno tinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle estese pianure. Questa è la Senna e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi, contati nell'Isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre.